Annalina Ferrante, dell'amministrazione della libreria Amore e Psiche. Benvenuta a Radio Articolo 1. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Un saluto anche a Marino Sibaldi, ci conosciamo e apprezzo tantissimo il suo lavoro. Ecco, Annalina, noi abbiamo qualche minuto a disposizione. Io vorrei che tu brevemente raccontassi a Radio Articolo 1 la storia che sta vivendo in questi ultimi giorni, la storica libreria Amore e Psiche, che a Roma tutti conosciamo. Insomma, abbiamo parlato di Bibbia, abbiamo parlato di croce. Che succede ad Amore e Psiche? Guarda, la storia del mio amore psiche cercherò di dirtela in brevissimo tempo. Noi siamo sotto sfratto da qualche anno, a novembre abbiamo perso la causa cioè siamo in causa per la proprietà, con la proprietà, abbiamo perso la causa in prima istanza, avremo un'altra a novembre, avremo un appello a luglio. Nel frattempo abbiamo richiesto la sospensiva dello sfratto che ci è stata negata. E proprio domani dovremo avere la notifica dell'ufficiale giudiziario. Ovviamente noi stiamo facendo un appello perché è una libreria che ha una sua storia, è nata 20 anni fa, compieremo ad aprile 20 anni, è un punto di riferimento culturale piuttosto forte perché abbiamo avuto più di 320 in tutti questi anni, con nomi grossi, insomma, che voi si possono leggere ovunque, da Giorgio Ruffolo, Guido Crais, Lucio Villa, Riccardo Figlio, insomma. Sarebbe lungo l'elenco di persone che hanno così attraversato la libreria, ma non solo, noi abbiamo ospitato eventi di qualsiasi natura, eventi musicali, mostre d'arte, quindi insomma abbiamo sempre cercato di fare cultura in senso nuovo, alternativo alle grandi catene, un polo abbastanza, un polo di riferimento. In più noi siamo bottega storica dal 2011, abbiamo ottenuto un grossissimo punteggio perché ha un'architettura assolutamente originale d'autore, è uno dei punteggi più alti che l'abbiamo avuto proprio per questo. L'architettura è noto, è un'ideazione assolutamente originale di Massimo Fagioli, che è uno psichiatra notissimo, artista anche in questo caso, e quindi noi stiamo cercando di resistere, di trattare. I margini sono molto stretti, però insomma noi cerchiamo il sostegno di tutti. Abbiamo un blog su segnalazioni.blogspot.com e ci auguriamo di trovare un futuro. Sentivo parlare di futuro, futuro per l'editoria, futuro per i libri, futuro per la cultura e per i luoghi come il nostro, che è stato definito una fucina di cultura, un polo di scambio di idee, un'agorà addirittura della lettura di qualità, perché abbiamo dei gruppi di lettori molto forti. L'hanno detto i giornalisti, non l'ho detto io, giuro. E quindi noi ci auguriamo che a qualcuno ascolti la nostra voce, come già succede al comune e come è successo anche per Croce e Bibli, ma insomma noi speriamo in una trattativa che permetta non la scomparsa, ma il rilancio della libreria Amore e Psiche. Ecco Marino, prima di salutarci, veramente una battuta ringraziandoti della disponibilità su questa così piccola ecatombe delle librerie. Abbiamo letto qualche giorno fa sul Corriere della Sera anche la storica libreria Zanichelli, frequentata da Carducci in fase di chiusura. Bene, la libreria Amore e Psiche, che la conosco perché è una zona cruciale della città, no? Nel centro di Roma, vicino al Pantheon, ma anche vicino a una mega libreria che sembrerebbe assorbire ormai tutte le potenziali, che è la grande libreria Feltrinelli d'Arte Argentina. Allora dico una cosa, che senza librerie come Amore e Psiche non esiste la lettura, non esiste più il libro e la lettura, perché non esiste nemmeno la qualità della vita urbana, perché pensate quella zona di Roma, per chi la conosce, o di fuori Roma, che è una zona di alta intensità turistica, diventa un posto solo di negozi per turisti e di turisti, senza più nessuna identità. Io non sapevo di questo giusto attestato di bottega artigiana che la libreria ha ricevuto, ma mi sembra esemplare perché dice qualcosa che non riguarda solo il mondo del libro, riguarda la qualità della vita dentro questi centri urbani e riguarda pure cos'è davvero la lettura. La lettura non è solo entrare in un grande negozio di libri, acquistare libri e andarsene. È bellissima l'idea delle persone che si danno appuntamento dentro quella libreria, come ora raccontava Annalina, nella grande libreria che domina una piazza alle loro spalle, la gente al massimo si dà appuntamento fuori, è diventato uno degli avversari. Dentro magari ci vanno, comprano il libro ed escono, ma non c'è la vita del libro. Io non ho nulla contro le grandi catene, contro i grandi negozi, perché hanno aiutato il libro a uscire anche da una sua magari il rischio di essere una cosa elitaria, senza un tessuto di librerie, di negozi, di librai, cioè di persone che si assumono la responsabilità della qualità del loro lavoro, la lettura, allora davvero tanto vale fare in rete i libri. Questo voglio dire, tanto vale stare al proprio tavolino, in rete, ricevere il libro, pagarlo, comprarlo o scaricarlo più o meno legalmente come accade per gli altri oggetti, no? Bene, grazie, grazie Maria Filippardi, Grazie a direttore voi, di grazie. Radio 3, e grazie Molti anche auguri ad a Paolo, sì. Annalina Ferrante, molti Grazie Marino, grazie a auguri. voi, grazie mille.